versione di Oscar Giannino. Qua in diretta dei studi Radio 24, 16:31, primi 30 secondi. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto diretto in podcast della versione di Oscar, come tutti i pomeriggi. Vado subito all'argomento della giornata. Vi preavviso quindi, cari contribuenti che avete pendenze con Equitalia, è il vostro turno oggi per telefonare, perché siamo in presenza di una sentenza che tenteremo di spiegarvi con l'avvocato che ha patrocinato il suo assistito, che è una sentenza molto importante che dà torto a Equitalia, e vedremo perché è importante per tutti. Oltretutto non è solo importante per l'ammontare della somma, perché stiamo parlando di cartelle di Equitalia esattoriali cancellate per 660.000 euro, ma soprattutto perché stabilisce con una chiarezza inusitata sia i presupposti per i quali Equitalia può emettere i titoli esecutivi, sia a chi spetti l'onere della prova, che come sapete nel nostro procedimento del contenzioso tributario è sulle spalle del contribuente, che dicano i principi generali del nostro ordinamento giuridico. Quindi se voi siete alle prese con contenzioso tributario in cui invece siete voi che dovete provare il contrario di ciò sulla cui base sta dovendo pagare a titolo esecutivo allo Stato dei soldi, chiamate e diteci cosa pensate di questa vicenda prima, e soprattutto ci raccontate la vostra. Prima di entrare nei particolari, di presentare gli ospiti per spiegare questa vicenda che avviene a Venezia, fatemi dire però una cosa. Ecco, ieri io vi ho preavvisato, per chi avesse ascoltato in diretta o in podcast la trasmissione, di una notizia. Vi ho detto: guardate che il Quirinale ha bloccato, ha detto no alla bozza di decreto che era prevista in Consiglio dei Ministri ieri mattina per la sanatoria per il buco di 19,3 miliardi stimato dalla Corte dei Conti alle regioni che hanno utilizzato fondi vincolati a pagare i loro debitori commerciali per fare spesa corrente, decreto che era stato annunciato dal governo all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri di ieri, non c'è stato, e vi ho detto è il Quirinale che lo ha bloccato. Il Quirinale che lo ha bloccato perché di fronte al procedimento contabile quantomeno innovativo e disinvolto con cui si sanava questa questione, cioè riscrivendo ex post i bilanci regionali e aprendo un mutuo trentennale, il Quirinale ha detto no, scusate un secondo, è una cosa di rilievo eccessivamente rilevante perché io vi metta la firma, voglio capire bene, sentire la magistratura contabile eccetera. E vi ho anche aggiunto, è la seconda volta che capita in 5 giorni, perché già la settimana precedente in realtà il Quirinale ha bloccato la prima bozza di decreto sul prolungamento dei termini per la voluntary disclosure, che è stato invece approvato ieri in Consiglio dei Ministri, levandolo dal provvedimento omnibus in cui l'aveva proposto il governo. Ci eravamo lasciati ieri dicendo, vediamo se i giornali italiani ne parlano domani, cioè stamattina. Questa mattina l'unico giornale che ci ha fatto un articolo su una notizia che non mi pare così trascurabile, cioè il no del Quirinale ai decreti del governo, in un paese in cui tutti dicono, criticano il governo per eccesso di decreti, e qualcuno pensa che Mattarella, siccome sta muto e non interviene nel dibattito, sia troppo poco vigile, mi sembra una signora grande notizia, perché entrambi i provvedimenti hanno in gioco miliardi di euro. Lo ha scritto un unico giornale, lo ha scritto sulla Stampa questa mattina Alessandro Barbera. Lasciate che io vi dica che, per quanto possa essere secondo alcuni di voi molto presuntuoso, non lo sono al punto da credere che siamo solo in due, io e Alessandro Barbera, i giornalisti italiani capaci di captare una notizia di queste proporzioni, il no reiterato del Quirinale a 2 decreti legge del governo. Allora c'è un problema più generale però, che è il problema di come l'informazione in questo paese fa il suo mestiere. I politici esagerano usando toni, dando giudizi e manipolando le cifre, ma è vero che questo avviene perché l'informazione si distrae rispetto a fatti così rilevanti. Non mi interessa dare pagelle, io stamattina ero veramente allibito di fronte alle proporzioni di questo buco complessivo. Ripeto, io non ho meriti, faccio il mio mestiere, telefono tutto il giorno, sento, cerco di capire. Sta di fatto che non credo affatto che grandi giornali italiani questa cosa non la sapessero. Quello che conta è che non l'hanno scritta, e questa cosa per me è un amarissimo motivo di riflessione. Che idee potete farvi voi se l'informazione non vi parla di fatti così rilevanti? Ho grande rispetto per l'opinione di ciascuno, chi è a favore, chi contro, chi pensa qua, chi pensa là, chi vota questo, chi vota quello, chi non vota, ma una cosa è sicura: o noi esistiamo per tentare di raccontare i fatti, o altrimenti, se è solo pura opinione, eh beh, allora facciamo un'altra cosa, non ci chiamiamo più giornalisti, chiamiamoci storytellers, eccetera eccetera. Chiusa di questa parentesi, chiusa, però è un tema che mi sta troppo a cuore e troppo rilevante per non notare cose di questo genere. E veniamo alla vicenda di oggi, che è venuta a Padova, non a Venezia come avevo detto prima, e quindi correggo il mio errore. Il tribunale, sì, è quello di Venezia, e il tribunale di Venezia, con la sentenza, la numero 3079 del 2015, che è stata pubblicata pochi giorni fa, il 23 settembre, appunto, annulla la cartella di Equitalia per un valore di 660.000 euro a un artigiano. Vedremo come si è arrivati a questo debito, vediamo l'artigiano in questione di che cosa è stato da parte dell'Agenzia delle Entrate prima e poi ovviamente da Equitalia con titolo esecutivo chiamato a pagare. E terzo, vediamo soprattutto che cosa il tribunale ha deciso per dire a Equitalia: no, queste cartelle le annulli, perché sei venuta meno a due fondamentali principi che è il caso di ristabilire per il caso di questo contribuente artigiano, ma che devono valere per tutti i contribuenti. Allora, per spiegarci meglio quello che è successo, abbiamo due ospiti. Innanzitutto l'avvocato che patrocinava l'artigiano di fronte al tribunale di Venezia, cioè Francesco Carraro. Buon pomeriggio, avvocato. Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ospiti in ascolto. E Lisa Cappelli, che è presidente di un'associazione AUA, cioè l'associazione utenti auto, che però si occupa anche di tutela dei consumatori e che ha preso a cuore questa vicenda, l'ha commentato. Grazie a Lisa Cappelli di essere con noi. Buongiorno, grazie a voi. Allora, avvocato, tentiamo di spiegare a chi non sa nulla di questa vicenda come questo artigiano, un artigiano con una bottega avviata prima della crisi, fino a 20 dipendenti e collaboratori, da quello che sapevo, arriva a accumulare 660.000 euro di presunto debito nei confronti dello Stato con Equitalia che gli manda le cartelle per obbligarlo a pagare. Come ci si è arrivati? Sì, ci si arriva, una tipica storia, direi, del Nord-Est, di quelle che sono state raccontate negli ultimi anni, non solo dai giornali ma anche credo dai libri a livello narrativo. Cioè il classico imprenditore, che potrei definire piccolo perché oggi in Italia comunque avere una o più aziende, in questo caso si parla di tre realtà che erano, sì, comunque tutte, facevano capo a questo contribuente nonché cliente che ha fatto che ha promosso il diritto contro Equitalia, si trova a un certo punto a dover affrontare la classica situazione in cui devi pagare i dipendenti, come è ovvio e giusto che sia, e lui li pagava, e devi pagare un'enormità di contributi per i dipendenti, come ovvio e giusto che sia, potrebbe raggiungere in tanti. È vero anche che a un certo punto entra in gioco questo tipo di pretese da parte non delle RAE, qui stiamo ovviamente i contributi, quindi dell'INPS e quindi dell'INAIL, certo. E quindi ad un certo punto, come sappiamo benissimo, ci sono stati moltissimi imprenditori negli ultimi anni che hanno dovuto fare una scelta draconiana, cioè o sopravvivo e faccio sopravvivere i miei dipendenti, oppure, e quindi può essere che non riesca anche a farmi carico di un certo tipo di realtà e di contributi, oppure mando a picco la barca e la baracca e chiudo bottega. E questa è una storia molto simile a quelle che ho appena accennato e che sono state raccontate appunto dalla pubblicistica degli anni zero, ma credo anche prima, degli ultimi anni 90, insomma. A un certo punto il soggetto in questione si trova di fronte a questa mole enorme, potremmo chiederci: ma com'è che si arriva ad accumulare un importo pari a 660.000? In realtà è stato approssimato per difetto dai quotidiani e dalla stampa che ne ha dato rilievo. Ah, di più. Perché Sì, era un po' di più anche la domanda, però una cartella per un importo abbastanza basso non è tra quelle che sono state annullate, quindi viene alla fine la somma annullata ammonta a circa 662.000 euro. Perché, direte voi? Beh, perché non riguarda una sola persona, perché riguarda una pluralità, come ha giustamente detto lei, di dipendenti, ciascuno dei quali evidentemente aveva la sua posizione contributiva, e quindi tu somma posizione su posizione, anno su anno. A un certo punto il nostro amico si è trovato con un'autentica montagna che pendeva sul capo. Nel momento in cui io inizio ad occuparmi, trovo di due eclatanti. La prima era l'intervenuta prescrizione, e qui non ne ha parlato nessuno, forse perché il giudice comunque ha deciso, diciamo così, in via preliminare la causa, e quindi si è pronunciato senza affrontare quel tema, perché non era necessario nel momento in cui tu poni nel nulla delle cartelle per una ragione giuridica fondamentale come quella del caso di specie, evidentemente non affronti neanche il merito. Esattamente. Ma questa è la logica processuale che ci sta assolutamente. Però questo era il primo motivo che io avevo messo in evidenza. Il secondo motivo era questo del ruolo, che ammetto non è facilissimo da spiegare perché è un po' da addetti ai lavori, ma per farvi capire la cosa potrei semplificarla così. Se un privato cittadino viene da te e accampa delle pretese nei tuoi confronti e le fa valere con un atto di precetto, con un pignoramento, no? E ti chiede 20.000 euro, beh, la prima cosa che tu fai è domandarti: ma perché vuoi questi soldi da me, no? In base a che cosa? Ecco, la base di questo che cosa si chiama in Italia, nell'ordinamento giuridico italiano, titolo esecutivo. Esattamente. Può essere una sentenza esecutiva, può essere un decreto ingiuntivo non opposto, può essere cambiato, un assegno protestato, ma qualche cosa ci deve essere. Certo. Ora, nei rapporti tra privati vige il principio per cui se uno ti fa un'azione di questo tipo senza titolo, perde evidentemente l'azione. Se tu ti opponi, se tu fai valere le tue ragioni e chiedi al giudice mostrami le carte, certo, dov'è il titolo? Non ce l'ho. E tu vai a casa con le pile al sacco e ti condannano anche a pagare le spese. E questo riguarda i rapporti tra privati. Però purtroppo, bravissime, siamo al dunque, riguarda i rapporti tra privati. La domanda che mi sono posto io è molto semplice: ma perché non deve riguardare anche i rapporti con la pubblica amministrazione? E ho in qualche modo valorizzato un articolo che poi viene menzionato dal giudice nella pronuncia, che è l'articolo 12 di questo decreto del Presidente della Repubblica, molto risalente nel tempo, perché stiamo parlando di un decreto che è il numero 602 del 1973, che però dice una cosa, un quarto comma piccolino, ma molto molto significativo, e cioè dice che a un certo momento l'esattore può procedere purché abbia in mano un ruolo che sia sottoscritto dal titolare dell'ufficio. Allora, quando parliamo di titolare dell'ufficio non intendiamo Equitalia, perché Equitalia è un mero esattore, intendiamo il soggetto responsabile dell'ente creditore che ha dato l'incarico a Equitalia. Bene, nel nostro caso, venendo al dunque, ci siamo trovati di fronte ad una causa dove io sostenevo che questo titolo, e guardate, quando parliamo di ruolo è molto semplice, è un pezzo di carta, certo. È un pezzo di carta dove c'è scritto che il signor Pinco Fallo è debitore nei confronti del fisco, di Equitalia, di un qualche ente. Questo pezzo di carta con questa firma a me non risultava essere presente tra le carte processuali, né mi risultava che il cliente ne fosse mai stato reso edotto, gli fosse mai stato mostrato. E durante il processo, evidentemente, stando alle motivazioni che si leggono nella sentenza, il giudice ha ritenuto di valorizzare proprio questa lacuna, questa carenza, cioè mancanza di titolo esecutivo. E allora ritengo che sia stata fatta giustizia, che sia una causa importante, non solo e non tanto per il valore, certamente per il valore, perché è chiaro che è eclatante, ma anche e soprattutto perché afferma un principio di civiltà, a mio parere, di civiltà cioè giuridica. Detta in fuori dal giusto linguaggio tecnico che si usa nel contenzioso tributario e parlando di ordinamento tributario, nella realtà questo primo principio generale che cosa dice, cari ascoltatori? Che Equitalia, prima di emettere cartelle, deve essere certa, prima di notificarla e poi di procedere nell'iter della cartella, deve essere certa che i requisiti in base ai quali può agire devono essere validi, devono essere cioè documentabili, questi requisiti devono riguardare il fondamento della pretesa dell'ente pubblico a nome della quale poi lui sta procedendo come braccio esecutivo di esazione. Se questi titoli non sono chiari, precisi, documentabili, con firma di dirigenti, giustificati e così via, viene meno il fondamento stesso delle cartelle. È così, avvocato? L'ho detto qualche proprietà? Ha detto perfettamente, e qui si innesta la seconda parte interessantissima di questa pronuncia. Perché interessantissima? Lei l'aveva accennata in apertura, no? Presentando il tema della giornata. Perché questo aspetto che è stato affrontato e poi deciso in questo modo dal Tribunale di Venezia, in verità non era la prima volta che veniva presentato all'attenzione, io stesso l'avevo sottoposto all'attenzione di altri organi giudiziari, e però spesso mi si obiettava che in realtà a un certo momento erano cavolacci del contribuente. Esattamente. Cioè tu dici che non c'è il titolo, attenzione, il paradosso filosofico prima che giuridico, dimostrami che il titolo non c'è. Esatto, cioè, l'inversione dell'onere della prova, che è uno dei fondamenti del vecchio processo inquisitorio, per essere chiari, per tornare indietro di secoli alle pretese di ordinamenti autoritari che evidentemente considerano i contribuenti schiavi, sudditi, invece che cittadini portatori di diritti. L'inversione dell'onere della prova. Questa volta, se Dio vuole e se abbiamo capito bene, il Tribunale di Venezia dice no, l'inversione dell'onere della prova non può ispirare il contenzioso tributario. È così? Esatto, non solo, ma addirittura non solo invertivano l'onere della prova, ma esigevano che i contribuenti esigono comunque ancora, perché l'obiezione viene ancora posta, che il contribuente dimostri che il ruolo non c'è, cioè io devo dimostrare l'inesistenza di qualcosa, il che è evidentemente un non senso da un punto di vista logico, razionale e filosofico, dico io, prima che... No, beh, è la classica prova diabolica del malleus maleficarum, quello che si diceva, tu donna sei una strega, dimostrami che non sei una strega, come sarebbe a dire, sei tu che stai dicendo che sei una strega, no, sei tu che mi devi dimostrare che non sei una strega, altrimenti sei una strega, ammettilo, ecco, questo era il principio, troppe volte che di fronte alle commissioni tributarie eccetera eccetera e nei giudizi penali legati al tributario ispira il rapporto in quanto a produzione di prove, eh? Allora ci fermiamo per un minuto e poi torniamo con i nostri due ospiti. Gran Moravia e Burro delle Alpi di Brazzale, fidati di chi conosci da 200 anni. Vi presenta la versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta alle 16:48 prime e 41 secondi. Stiamo parlando di questa sentenza del Tribunale di Venezia, importante non solo perché il giudice dà torto Equitalia per un ammontare molto elevato, cioè cancella cartelle a un artigiano per 660.000 euro, ma perché afferma due principi di ordine generale molto importanti. Il primo è quello che Equitalia deve, prima di emettere le cartelle, avere dei titoli validi, documentati della pretesa dell'amministrazione pubblica per la quale sta facendo l'esazione, il braccio esecutivo, e la seconda è che non si fa fatto l'inversione dell'onere della prova, quindi non spetta a quel punto al contribuente colpito dalle cartelle dover dimostrare che non è come dice Equitalia, ma invece è il contrario, come dovrebbe perlomeno essere evidente. Ho ancora qualche domanda però per l'avvocato che viene dai nostri ascoltatori. Primo, gli ascoltatori giustamente si preoccupano, sì, ma per i collaboratori dipendenti a questo punto dell'artigiano che non paga le cartelle, cosa succede per i loro contributi, le loro pensioni e così via? E poi seconda curiosità che hanno più di un ascoltatore, di dire con precisione qual è la sezione del Tribunale di Venezia, perché molti dicono vogliamo ringraziarli però fare riferimento, vogliamo sapere quale di preciso la sezione, che sezione era? Allora, per quanto riguarda il primo aspetto, sì, che è quello dei contribuenti, no? E in particolare dei dipendenti, sì, evidentemente a mio parere non ci sono problemi, è una domanda che mi è già stata posta, perché non ci sono problemi? Perché il dipendente in quanto tale, nel momento in cui è stato assunto regolarmente ovviamente da un'azienda, ha diritto alle contribuzioni e alle prestazioni che gli enti assistenziali gli devono alla fine della carriera come pensione piuttosto che come altri emolumenti. Se in un caso come quello di specie la mancata contribuzione deriva da una colpa evidente dell'istituto che fa prescrivere il credito, sì, a cui avrebbe diritto, esatto, piuttosto che omette di conservare le spese giustificative su cui si fonda quel credito, merito. Beh, non vedo per quale ragione dovrebbe rimetterci il dipendente. Esatto, quindi, non ci rimette. Per quanto mi riguarda... No, ma c'è fior di giurisprudenza accumulata su questo, quindi cari ascoltatori, non ci rimettono i dipendenti, e se ci dovessero rimettere possono ricorrere e vincere. Che sezione del tribunale invece era? La sezione prima sezione civile. Prima sezione civile del tribunale di Venezia, sia benedetta. Che dice Elisa Cappelli? Questa sentenza vi ha riempito di soddisfazione perché? Sì, perché in l'AUA è un'associazione che dal 91 ormai si occupa di difendere inizialmente gli automobilisti per quanto riguardavano le multe, eccetera. Poi nel tempo si sono rivolti a noi, le persone, anche per altri aspetti, per valutare se c'erano le possibilità di contestare o perlomeno di capire quando venivano destinati di qualche cartella di pagamento o qualche provvedimento dell'Agenzia delle Entrate piuttosto che dell'INPS, come nel caso del nostro ricorrente. Come diceva l'avvocato, la motivazione che riporta la sentenza è un motivo che comunque viene riportato nei nostri atti da sempre, diciamo, però solo adesso è stata resa questa sentenza molto molto importante, sia per appunto il valore della causa che anche per quanto riguarda appunto questa motivazione. E quindi si tratta quello ovviamente che... a questo punto di darsi da fare nella tutela dei contribuenti per estenderli questi principi nel contenzioso. Sentiamo Massimo da Milano che credo che abbia una domanda. Massimiliano, sì. Scusa, prego. Salve, buongiorno. Buongiorno. Volevo chiedere, ma tutti gli avvocati che hanno protetto altri contribuenti che erano contro Equitalia, di questa clausola o comma o che sia, sì, articolo, di questi non principi erano... generali non erano, lei dice non hanno provato a fare la stessa cosa, ecco. Patrocinato perché protetto sembra una cosa un po' allora chiediamolo all'avvocato Carraro. Molti avvocati e molti commercialisti in realtà sui principi generali dicono ai loro clienti che non è il caso di insistere perché si perde. Non è vera la domanda del nostro ascoltatore, ha un fondamento, lei non pensa? Assolutamente un fondamento, e ha a che fare con un aspetto fondamentale che io cerco di spiegare sempre, ma credo come qualunque altro avvocato operatore del diritto, e cioè che il diritto non è qualcosa di solido e di dato una volta per tutte e di non interpretabile. Io faccio sempre l'esempio del codice, tu prendi 2969 articoli del codice civile commentati, troverai sotto ogni articolo una spinta di interpretazioni bianche e una spinta di interpretazioni nere, prese tutte da magistrati della Repubblica, ma è perfettamente legittimo perché la legge si presta a interpretazione. Abbiamo proprio fatto il caso la scorsa settimana della sentenza su una Corte di Cassazione in materia di corresponsabilità in solido tra sostituito e sostituto d'imposta, in base alla quale l'Agenzia delle Entrate ed Equitalia chiedono i soldi a lavoratori dipendenti anche su imposte non pagate da un'impresa che non gli ha versato lo stipendio, e in quel caso si basa su un'interpretazione, a mio giudizio, del professor Stevanato, che insegna diritto tributario, del tutto abnorme di una sentenza della Corte di Cassazione. È fin troppo interpretabile il nostro diritto. Però, cari contribuenti, se il vostro professionista vi dice noi non facciamo resistenza sui principi generali, andiamo subito nel merito, secondo me è il caso di sentirne anche un altro. Giovanni dalla Spezia, che dice Giovanni? Sì, buonasera Giardino. Dico che mio malgrado sono coinvolto nella questione, nel senso che... Come contribuente o come avvocato o come giudice? No, come avvocato. Ah, come avvocato. Sì. Purtroppo confermo quanto dice il professore collega, nel senso che è molto difficile proprio davanti, in primis la commissione tributaria, ma anche davanti ad altri organi di giustizia, nel momento in cui ci si trova a contraddire con Equitalia, con la giustizia delle entrate, affermare principi di diritto banalissimi. Quale in primis l'ordine della prova, nel senso che esatto. Io e poi tra l'altro c'è una giurisprudenza a volte, purtroppo mi spiace dirlo, schizofrenica, nel senso che a partire dalla Suprema Corte c'è sezione tributaria, presidente Cicala, che afferma ormai secondo me in maniera abbastanza consolidata che Equitalia debba provare anche il contenuto di ciò che notifica, esatto, e quindi della cartella, e non soltanto provare che sia avvenuta, esatto, una notifica, mentre il settore civile in maniera diametralmente opposta ritiene assolutamente il contrario, cioè che sia sufficiente l'attestazione della notifica anche in copia, senza anche l'inesistenza dell'atto, poi l'esistenza della cartella, per la validità piena del titolo esecutivo. È esattamente come vi sta dicendo l'avvocato Giovanni della Spezia, e questo dà l'idea della follia di divergente interpretazione in base alla quale poi l'Agenzia delle Entrate ed Equitalia, diciamo, si spingono sulla frontiera estrema del mancato rispetto dei diritti fondamentali, del diritto naturale addirittura, prima che del diritto costituito nei codici di ogni cittadino italiano e di ogni contribuente. Speriamo di avervi illustrato questo caso, cari ascoltatori, per dirvi che bisogna lottare per difendere i propri diritti contro le pretese dello Stato tributario, rimanendo in quello che dice la legge, non senza riconoscere la legalità. Ma la legalità è innanzitutto concepita a favore del cittadino e del contribuente, non per le pretese fiscali dello Stato. Grazie a tutti voi, continuate su Radio 24, appuntamento con me a domani.